il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Progetto per recuperare alcune antiche varietà di vite. È questa una delle iniziative del Consorzio Vini Venezia presentate in una conferenza stampa al Vinitaly di quest'anno. L'interesse del progetto però va più in là del semplice recupero dei vitigni. Sono i luoghi dove questi vigneti sono stati recuperati a sorprenderci. Sono antichi giardini e orti di conventi delle isole della Laguna. Tutte queste viti recuperate sono poi state piantate nell'orto del convento dei Carmelitani Scalzi vicino alla stazione di Venezia, che a maggio sarà anche aperto al pubblico. Di tutto questo oggi parliamo con Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. Buongiorno a tutti voi. Ecco, la prima cosa che ci ha colpito è proprio il luogo dove avete recuperato queste antiche varietà. Cioè, qual è il percorso che avete fatto con questo progetto? Questo è un progetto che nasce da lontano, è nato nel 2010, abbiamo sviluppato questo progetto in collaborazione con l'Università di Milano, di Padova, il CRA, l'Istituto di Ricerca di Conegliano, e poi abbiamo avuto anche il supporto dell'Università di Berlino, che a suo tempo aveva già fatto studi in questo senso. Il progetto mira al recupero di una viticoltura che ormai è scomparsa fra Venezia e la Laguna. Stiamo parlando di archeologia più che di viticoltura. Ecco, perché la gente forse non sa che anche nelle isole veneziane i veneziani appunto producevano vino, non lo acquistavano solo dalle isole. Esattamente, c'era già dopo... Nel 1400 c'è stata una grande effervescente coltivazione degli orti, e noi abbiamo già nel catasto che abbiamo proprio analizzato per bene il catasto napoleonico del 1700, abbiamo visto che per esempio nelle isole a nord della Laguna c'erano addirittura 600 ettari di 60 ettari di vigneto che nel catasto viene denunciato come orto vitato arativo, e questo vuol dire che c'era un'effervescente produzione di vino dentro all'orto, insieme con anche altre produzioni come la frutticoltura. Tutte queste analisi che abbiamo fatto, siamo andati anche dentro la città storica e abbiamo analizzato tutte queste viti che trovavamo sparse. È chiaro che soprattutto all'interno della città di Venezia non ci sono vigneti se non all'interno di giardini. I giardini più grandi a Venezia ce l'hanno i conventi, ce l'hanno le parrocchie. Certo. Allora lì siamo andati, abbiamo concentrato la nostra attenzione e abbiamo visto vigneti oltre che chiaramente nelle isole, ma soprattutto nei conventi Carmelitani Scalzi, dalle suore, abbiamo visto nell'isola di, nella parrocchia di Sant'Elena, nel giardino dell'IRE, che è l'istituto per gli anziani della Giudecca, all'hotel Cipriani, sempre Giudecca, poi... E siamo andati a San Lazzaro, gli Armeni, a San Michele. Ecco, che cosa avete trovato? Abbiamo trovato tantissime, cioè la maggior parte di varietà sono varietà internazionali che sono state piantate dopo il periodo della filossera, cioè tanto Merlot, Cabernet, abbiamo trovato del Tokaj, del Prosecco, abbiamo trovato una garganega, ho trovato un po' di tutto, però anche varietà che non sappiamo cosa sono, anche varietà molto strane. Abbiamo trovato per esempio un incrocio che viene dall'Armenia, che pensavamo scomparso, che si chiama Ruzeski, adesso lo stiamo recuperando. Due o tre barbatelle le abbiamo già piantate nel primo vigneto che abbiamo fatto a Torcello, che abbiamo messo a dimora a gennaio dell'anno scorso, dove abbiamo messo insieme il primo step di questo progetto, e pianteremo, anzi abbiamo già piantato in parte questo nuovo vigneto ai Carmelitani Scalzi a Venezia, lì vicino alla stazione, dove metteremo a dimora, oltre che a queste vecchie viti che abbiamo recuperato, anche una bellissima e completa collezione di malvasia. Eccoci. In quanto la malvasia è stata la storia del commercio del vino, direi mondiale, ma veneziano, nasce con la malvasia, perciò noi non potevamo che omaggiare questa varietà, questa tipologia di vino. Benissimo, ci fermiamo per qualche minuto, continuiamo questo racconto a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Suonare, prima deve imparare ad ascoltare. Chi vuole ridere, impari prima a piangere. Chi vuol capire, prima deve riuscire a domandare. Chi vuole vincere, impari prima a perdere. Chi vuol tenere, prima deve sapere. Chi vuole amare, prima deve imparare a rinunciare. Io so inventare, so improvvisare, senza regole né strutture, faccio come mi pare, come mi pare. So immaginare una storia intera, senza una sola parola. abbiamo in linea con la nostra trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del recupero di alcuni antichi vitigni a cura del Consorzio Vini di Venezia nelle isole del Veneziano. Si diceva che queste viti recuperate sono state piantate nell'orto dei Carmelitani Scalzi. Chiediamo adesso al direttore, appunto Carlo Favero, del Consorzio Vini di Venezia di dirci qualche cosa di più di questo orto, visto che verrà aperto al pubblico fra qualche settimana. Allora, tutti, anzi pochissimi sanno, ma in fianco alla stazione c'è un grandissimo brolo, che è un brolo di 6.000 metri, un brolo è un giardino murato, no? E lì all'interno di questo brolo c'era un vecchio frutteto, un vecchio vigneto, l'orto, ed è sostanzialmente il quanto serviva una volta ai conventi, sia delle suore oppure dei frati, per il loro sostentamento. Chiaramente l'orto per il frutteto per procurarci come cibo per tutti i giorni, e il vino poi per usarlo nelle funzioni religiose, per la messa. Noi siamo entrati in questo brolo un paio d'anni fa per vedere, appunto, per selezionare queste viti. Abbiamo trovato una situazione un po' di degrado, perché questi frati erano un po' anziani, insomma, coltivavano un po' questo vigneto. In compenso abbiamo trovato un grandissimo effervescente architetto, il quale stava restaurando, appunto, la facciata della chiesa e anche i muri, con i quali ci siamo trovati perfettamente allineati su quello che poteva essere la ristrutturazione di questo brolo. Tutto questo si è innestato su una nuova fase, una nuova, usato del termine, politica che hanno i carmelitani a Venezia, che vogliono un po' farsi conoscere, far conoscere la loro regola, far capire chi sono, cosa fanno, eccetera. Tutto questo messo insieme ha fatto sì che potessimo realizzare questo progetto. Abbiamo sostanzialmente ristrutturato e rifatto tutto questo brolo. Stiamo in questi periodi realizzando 7 aiole, 7 e 14 coltivazioni. Le aiole sono composte da un primo, sarà un prato fiorito, poi avremo le aiole con le piante aromatiche, poi con le piante officinali. Avremo una grande vasca per la produzione della melissa, che poi i carmelitani useranno per fare l'acqua di melissa, loro hanno una grandissima produzione. Poi ci sarà questo vigneto che abbiamo già piantato per 3/4, adesso pianteremo altre piante appena ne avremo disponibilità. Abbiamo già concluso anche il frutteto, e abbiamo anche concluso l'oliveto. E quando sarà aperto al pubblico? C'è già una data della preinaugurazione? Allora, faremo l'inaugurazione probabilmente il 20 maggio, faremo la presentazione di questo progetto, e dopo organizzeremo delle visite guidate su prenotazione, perché chiaramente essendo un ruolo religioso non è che possiamo permetterci di mandare la gente su e giù come fosse Piazza San Marco. Ecco, torneremo a dare la notizia magari quando sapremo la data certa. Volevo, in conclusione di questa trasmissione, abbiamo ancora un minuto circa, chiederle dal passato all'oggi. Non tanti sanno che anche Venezia ancora produce, il territorio veneziano, molti vini, ma in più voi avete creato un consorzio che mette assieme le principali DOC del territorio, appunto Consorzio Vini Venezia. Volevo chiederle due parole veloci su questo consorzio e sulle prospettive che avete. Allora, il nostro consorzio è un'associazione di produttori che raccoglie 4.500 produttori della provincia di Treviso e di Venezia. Abbiamo messo insieme due storici consorzi, che era il consorzio DOC Piave e il consorzio DOC Alison Promaggiore, due consorzi, diciamo, piccolini, li abbiamo fusi insieme, abbiamo creato questo nuovo consorzio, in modo che avesse le spalle un po' più larghe per poter meglio comunicare e meglio affrontare le sfide del mercato odierno, avendo la possibilità di portare i produttori, i nostri associati, anche non, nei grandi mercati internazionali. Noi facciamo manifestazioni in tutta Europa, Stati Uniti, abbiamo un ufficio e una enoteca promozionale anche in Cina. Questo è possibile, è stato possibile perché i due consorzi piccolini sono fusi in un'entità un po' più importante e un po' più che avesse anche una certa disponibilità economica per poter approcciare queste iniziative. Ecco, io con questo dobbiamo un po' chiudere. La saluto però dando anche un sito internet che mi pare sia www.consorziovinivenezia.it, dove si possono trovare tutte le informazioni sia sui vostri associati, sulle attività del consorzio e anche su questo progetto del recupero dei vigneti nell'orto dei Carmelitani Scalzi vicino alla stazione. Esattamente, qui potete trovare tutte le informazioni che servono per poi poter visitare anche questo posto bellissimo e incantevole. A due passi dalla stazione di Venezia. Grazie. Esattamente. Niente, arrivederci a tutti. E anche per questa settimana è tutto. Vediamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima e vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.